andata bene perché era una sfida che sapevamo difficile, perché è difficile oggi parlare di pace in Europa e anche negli altri continenti. C'è stata una ottima partecipazione, erano presenti rappresentanti di reti, associazioni, movimenti provenienti da 45 paesi, chiaramente una maggioranza dall'Europa ma anche dalle Americhe, dall'Africa e anche dall'Asia. Abbiamo messo le basi per un percorso che possa comprendere le tante anime diverse del pacifismo internazionale, ma in particolare credo che il risultato, che per quanto mi riguarda è quello più importante, è che abbiamo lanciato un messaggio e abbiamo riaffermato l'importanza del lavoro che dobbiamo fare con gli ucraini, con i russi, con i bielorussi, perché la pace la dobbiamo costruire insieme ed è un percorso lungo, difficile. L'assemblea, nelle tante discussioni, incontri che abbiamo avuto a Vienna, siamo riusciti insieme a superare quella che era un po' un'esigenza che varie realtà associative e vari movimenti pacifisti avevano, quello della denuncia, della ricerca delle responsabilità, cosa che non è che la si voglia evitare, ma riteniamo che sia molto più maturo oggi cercare di aprire strade di dialogo in tutte le direzioni. E questo lo abbiamo raggiunto perché la dichiarazione finale si attiene ai principi generali, al rifiuto della guerra, all'affermazione che la pace non la si può ottenere in nessuna guerra, ma in particolare in questa guerra, con la soluzione militare, e che riaffermiamo la priorità della difesa delle vite delle persone. È per questo che il cessate il fuoco deve essere immediato e senza precondizioni, ma deve essere accompagnato da un impegno serio, profondo, sincero per il negoziato da parte di tutta la comunità internazionale. Nella dichiarazione è anche riaffermato il rispetto agli ucraini e al loro diritto di difesa. Ciò non significa che siamo a favore della difesa in termini di guerra, no, ma riconosciamo che chi è oggi sotto le bombe e che ha le morti in casa, le case distrutte, è in una situazione completamente diversa da quella in cui ci troviamo noi. Quindi massimo rispetto, ma anche tanta disponibilità a manifestare concretamente la nostra solidarietà, finché la solidarietà che si dà per la pace, per la via non violenta, sostituisca la solidarietà che si sta dando per la guerra. Ecco, a Vienna c'erano personalità anche internazionali importanti, ad esempio Chomsky, eppure sembra che si faccia ancora fatica sui media italiani, ma forse anche altrove, a portare avanti il pensiero pacifista. Qualcosa in questo fronte bellico si è rotto? Io credo che ci sono molte riflessioni in corso, molte delle quali ancora non appaiono nei media, la testimonianza di Chomsky, ma anche le testimonianze di chi è stato dentro la guerra e dalla parte della guerra, chi ha avuto responsabilità all'interno dell'amministrazione americana con funzioni militari e di comando, a chi è stato diplomatico nelle Nazioni Unite rappresentando paesi europei, a chi è nel Parlamento europeo. Sono emerse da queste persone una forte critica a quello che loro stessi hanno fatto e hanno sostenuto, denunciando proprio che la soluzione militare, questa corsa al riarmo, il rischio, la minaccia nucleare, eccetera, sono tutti elementi che li portano oggi a dire che occorre fermare l'uccisione delle persone, occorre fermare la guerra, perché poi i traumi e le ferite che procura la guerra si lasciano per generazioni. Ancora oggi in Irlanda, dopo 20 anni dalla pace, ancora oggi le comunità non si parlano. Ci segnalavano appunto che solo l'8% delle classi hanno una presenza mista tra le due comunità, quella cattolica e quella protestante. Sappiamo com'è la situazione nell'ex Jugoslavia, con il Kosovo che di nuovo bolle e rischia di esplodere. Sappiamo cos'è l'Iraq e cos'è l'Afghanistan. Il fronte della guerra è ancora dominante, ma al suo interno credo che molte riflessioni ci siano. Chiaro che non riusciamo a fare delle crepe all'interno di quella che è la lobby dell'industria militare, quello no. Da Vienna però è stata lanciata una mobilitazione per il prossimo autunno. Sì, questo difatti era il secondo obiettivo che ci eravamo posti, dire: ma noi siamo movimenti, associazioni, sindacati, reti per la pace, la non non violenza, noi dobbiamo andare per le strade, noi dobbiamo mobilitarci, dobbiamo coinvolgere tutte le nostre comunità affinché i governi si rendano conto che la maggioranza della popolazione mondiale non vuole la guerra. Siamo riusciti a convergere su una proposta di una settimana di mobilitazioni a livello internazionale, quindi a partire dal sabato 30 settembre alla domenica 8 di ottobre. L'invito e l'impegno che abbiamo assunto e che ci farà lavorare tantissimo in questi mesi è quello di avere grandi mobilitazioni in tutte le capitali e le città di tutto il mondo, e questa è la sfida che stiamo lanciando appunto per contrastare l'escalation militare, la guerra e fermare l'uccisione di persone, la distruzione del pianeta in Ucraina.